Benvenuti a tutti! Sono Alessandra e oggi affronteremo un tema che sta rivoluzionando il mondo dell'istruzione, l'intelligenza artificiale. Con noi c'è Marco, esperto di tecnologie educative. Marco, benvenuto! Prima di tutto, vorrei che chiarissimo un punto fondamentale. Cos'è veramente l'IA nel contesto educativo? Grazie Alessandra! Vedi, partiamo da un punto cruciale. Il termine intelligenza artificiale è più una formulazione di marketing che una descrizione accurata. In realtà, parliamo di sistemi statistico-predittivi molto sofisticati. Interessante questa precisazione. Quindi dovremmo essere più cauti nell'uso del termine intelligenza? Esattamente. Prendiamo ad esempio dispositivi come Notebook LM o Perplexity.ai, che molti studenti usano per le ricerche. Non sono realmente intelligenti, ma elaborano pattern basati su dati esistenti. Mi colpisce questo aspetto. Come influisce questa distinzione sull'uso pratico nelle scuole? La questione è fondamentale. Questi dispositivi stanno creando un divario significativo tra chi può accedere alle versioni premium e chi deve limitarsi alle versioni gratuite, spesso con funzionalità limitate. Quindi parliamo di un problema di disuguaglianza digitale? Precisamente. E non è solo una questione di accesso, ma anche di impatto ambientale. Questi sistemi sono energivori e hanno un notevole impatto ecologico. Mi sembra che emerga un quadro complesso, dove tecnologia e responsabilità sociale si intrecciano. Marco, hai accennato all'impatto ambientale. Potresti approfondire questo aspetto che spesso viene trascurato? Certo. L'addestramento dei modelli di IA richiede un'enorme quantità di energia. Per farti un esempio concreto, addestrare un singolo modello linguistico può consumare l'equivalente dell'energia utilizzata da 5 auto, durante tutto il loro ciclo di vita. Questi numeri sono davvero impressionanti. Come si collega questo aspetto con il tema dell'equità nell'istruzione? È un collegamento diretto. Le scuole e le istituzioni più ricche possono permettersi di investire in tecnologie più efficienti e sostenibili, mentre quelle con meno risorse si trovano a dover scegliere tra l'esclusione digitale o l'uso di soluzioni meno ecosostenibili. Mi viene in mente una riflessione. Stiamo creando una sorta di circolo vizioso? Esattamente. E c'è un altro aspetto interessante che emerge, il potenziale narcisistico nell'uso dell'IA. Il narcisismo digitale? È un concetto intrigante. Puoi spiegare meglio cosa intendi? Pensa all'IA come a uno specchio digitale, non solo riflette, ma amplifica i nostri comportamenti. Gli studenti possono cadere nella trappola di cercare conferme continue dai sistemi IA, invece di sviluppare un pensiero critico indipendente. Questo mi fa pensare al ruolo degli insegnanti. Come possono gestire questa dinamica? Gli insegnanti devono diventare dei mediatori critici. Non si tratta solo di insegnare l'uso dei dispositivi, ma di educare a un approccio consapevole e critico verso la tecnologia. Quindi suggerisci una sorta di educazione all'IA? Esattamente, Alessandra. L'educazione all'IA dovrebbe essere una competenza fondamentale, proprio come lo sono la lettura e la scrittura. Ma non parliamo solo di competenze tecniche. Quali altri aspetti dovrebbe includere questa educazione? Innanzitutto, la consapevolezza etica. Gli studenti devono capire quando è appropriato utilizzare l'IA e quando invece è meglio affidarsi alle proprie capacità. Poi, c'è l'aspetto della verifica delle fonti e della validazione dei risultati. Mi viene in mente che questo richiede anche un aggiornamento significativo per gli insegnanti stessi. Certamente. Gli insegnanti devono essere i primi a padroneggiare non solo i dispositivi, ma soprattutto la capacità di valutarne criticamente l'impatto. È una sfida complessa che richiede formazione continua. A proposito di formazione, come possiamo garantire che sia accessibile a tutti? Torniamo al tema delle disuguaglianze. È un punto cruciale. Servono politiche educative che garantiscano l'accesso equo alle risorse tecnologiche. Per esempio, alcune scuole stanno sperimentando programmi di condivisione delle risorse IA tra istituti. Puoi farci un esempio concreto di come funzionano questi programmi di condivisione? Certo. Immagina un network di scuole che condivide l'accesso a licenze premium di dispositivi IA, organizza workshop congiunti e sviluppa materiali didattici comuni. Questo approccio collaborativo può ridurre i costi e massimizzare l'impatto positivo. Interessante. E come reagiscono gli studenti a questo tipo di approccio collaborativo? La reazione è generalmente positiva. Gli studenti apprezzano particolarmente la possibilità di confrontarsi con coetanei di altre scuole su questi temi. Inoltre, questo approccio aiuta a sviluppare competenze sociali oltre che tecniche. Mi sembra che emerga un modello di apprendimento più olistico. Proprio così, Alessandra. L'apprendimento olistico è fondamentale perché l'IA non è solo un dispositivo tecnico, ma un elemento che influenza profondamente le dinamiche sociali e relazionali. Questo mi fa pensare al ruolo della famiglia in tutto questo. Come possono i genitori supportare questo processo? È una domanda cruciale. I genitori dovrebbero essere coinvolti attivamente nel processo educativo. Per esempio, possono partecipare a sessioni informative sulla sicurezza digitale e sull'uso consapevole dell'IA. Ma non tutti i genitori hanno le stesse competenze digitali. Come gestiamo questa disparità? Infatti, è necessario un approccio multilivello. Le scuole potrebbero organizzare corsi base per i genitori, creando una comunità di apprendimento che coinvolga l'intera famiglia. È importante che nessuno si senta escluso. Parliamo anche del futuro. Come vedi l'evoluzione di questo rapporto tra IA e istruzione nei prossimi anni? Vedo tre tendenze principali. Prima, una maggiore personalizzazione dell'apprendimento attraverso l'IA, ma con un forte controllo umano. Seconda, l'emergere di nuove forme di collaborazione tra studenti mediata dalla tecnologia. Terza, un focus crescente sulla sostenibilità digitale. A proposito di sostenibilità, come possiamo conciliare l'innovazione tecnologica con la responsabilità ambientale? È una sfida complessa che richiede un approccio equilibrato. Dobbiamo puntare su tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico e promuovere pratiche di utilizzo consapevole. Per esempio, alcune scuole stanno già implementando politiche di digital detox programmate. Questo concetto di digital detox è interessante. Puoi spiegarci meglio come funziona in pratica? Certamente. Si tratta di periodi pianificati in cui gli studenti si concentrano su attività di apprendimento tradizionali, sviluppando capacità di problem solving senza l'ausilio dell'IA. Questo aiuta a mantenere un equilibrio sano e sviluppare competenze cognitive autonome. Mi sembra un approccio molto bilanciato. Sì, è fondamentale mantenere questo equilibrio. L'obiettivo non è demonizzare né idolatrare l'IA, ma utilizzarla come dispositivo al servizio dell'apprendimento umano. In conclusione, quali sono le tre raccomandazioni principali che daresti a chi si occupa di istruzione? La prima è investire nella formazione continua degli insegnanti, non solo sugli aspetti tecnici ma soprattutto sulla pedagogia digitale. La seconda è implementare politiche di accesso equo alla tecnologia, per evitare che il divario digitale diventi un divario educativo. E la terza? La terza, forse la più importante, è mantenere sempre al centro l'aspetto umano dell'educazione. L'IA deve essere un supporto, non un sostituto della relazione educativa. Questa mi sembra una sintesi perfetta dei temi che abbiamo affrontato oggi. C'è altro che vorresti aggiungere? Vorrei sottolineare un ultimo punto. Il futuro dell'educazione sarà determinato non tanto dalla tecnologia in sé, ma da come decideremo di utilizzarla. È una responsabilità collettiva che coinvolge scuole, famiglie e società nel suo insieme. Marco, ti ringrazio per questa analisi così approfondita e per aver condiviso con noi le tue preziose riflessioni. Grazie a te, Alessandra. Spero che questa discussione possa contribuire a un dibattito più consapevole sull'uso dell'IA nell'istruzione. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ricordate di seguirci per altri approfondimenti su temi di attualità e innovazione. Alla prossima puntata!